contesto della giornata mondiale di preghiera delle vocazioni della seconda domenica di maggio è ancora più significativo parlare di un giovane, un bambino che dalle nostre terre è diventato pontefice, Giuseppe Melchiorre Sarto di Riese, San Pio X come lo conosciamo tutti. Prima di ricordare alcuni appuntamenti, e sono diversi nei prossimi giorni, il calendario si va intensificando di questo centenario, proseguiamo la lettura dell'intervista Impossibile, opera realizzata ormai più di 15 anni fa dagli alunni della scuola media di Tombolo, che è il primo paese in provincia di Padova, diocesi di Treviso, dove Don Giuseppe Sarto ha svolto il suo servizio sacerdotale, appunto da cappellano, come si diceva all'epoca. Un testo che è dovuto alla classe prima C della scuola media Marco Polo, anno scolastico 96-97. È stato interessante riscoprire questo documento, questa intervista impossibile che questi ragazzi hanno immaginato appunto dopo aver studiato la storia di San Pio X. Eravamo arrivati nella scorsa puntata all'arrivo a Tombolo, appunto un arrivo che non era stato facile per Don Giuseppe. Siamo nel 1858, paese ovviamente di campagna. E paese a quanto pare cattivotto, e Don Giuseppe dice: non ero esperto di contatti con i fedeli, poi ho imparato che invece la gente era buona. La giornata, come si svolgeva la giornata? Era molto lunga, dice Don Giuseppe in questa intervista, perché mi alzavo prestissimo, anche alle 4:30, suonavo le campane per l'Ave Maria, poi mi preparavo le omelie con particolare cura, perché volevo che il messaggio di Dio fosse compreso bene dalla gente semplice e incolta del paese. Non volevo essere trascurato improvvisato con la scusa di parlare alla buona, anzi raddoppiavo il mio sforzo e facevo ascoltare le mie prediche al parroco Don Antonio Costantini, il quale mi incoraggiava. Sapete che poi si racconta, ci sono episodi anche documentati cui San Pio X in Vaticano parlava in dialetto veneto, quindi in questo senso è stato molto genuino, lui stesso lo conferma già in gioventù. Durante il giorno, dice ancora, volevo stare con tutti, anziani, bambini, sani, malati, le ore volavano. Alla sera dopo cena scrivevo, leggevo, studiavo. La gente di Tombolo diceva: studia sempre Don Beppo, e studia massa. Una volta un sacerdote mi ha detto: perché ti sbracci tanto? Credi di convertire il mondo? Io gli ho risposto: no, mi basterebbe convertire un uomo. Don Giuseppe parla della gente povera a cui lui si rivolgeva, quelli che erano prevalentemente analfabeti, ma in paese c'erano anche i commercianti di bestiame, attività tipica della zona, erano i più benestanti, ma in molte famiglie si mangiava solo polente e aceto perché le rendite dei campi erano insufficienti. Le case coloniche con il portico orientato a sud, il cortile recintato da siepi di spino, la stalla per le mucche, la stallotta del maiale, ovvero per le pecore, perché dalle pecore si prendeva la lana, il pozzo, il letamaio, il pollaio. Molte di queste casupole, che si chiamavano casoni, avevano il tetto di paglia raccolta lungo il fiume Tergola. La maggior parte della popolazione, come detto, era analfabeta e firmava solo con la croce. Di fronte alla carta stampata, gli abitanti di Tombolo si sentivano umiliati perché non sapevano comunicare, e questa, dice Don Giuseppe, secondo me era povertà quanto lo era la mancanza di cibo. Allora di insegnare gratis la lettura, la scrittura e il conteggio, far di conto, l'aritmetica, in una scuola serale. Quando qualcuno mi chiedeva quanto mi dovevo, rispondevo: niente schei, basta che non te bestemmi più, basta che non bestemmi più, non mi devi niente. Ho anche istituito una scuola cantorum perché ho sempre amato la musica, in particolare ho voluto che i putei e le putei, i ragazzi e le ragazze che cantavano durante il fioretto proprio del mese di maggio, intonassero poi gli inni nel coro per tutto l'anno. A quel tempo solo i signori del posto avevano un orologio che costituiva un lusso. Io desideravo che anche la gente comune fosse consapevole del susseguirsi delle ore del giorno per regolare le proprie attività. Certo, le campane magari dicevano l'ora, l'inizio della giornata, la metà, il termine con il suono dell'Ave Maria, e però non c'erano gli orologi. Allora Don Giuseppe racconta di aver costruito con le sue mani una meridiana sul lato sud della chiesa e della canonica, è un'altra attività tipica appunto che viene ricordata di Giuseppe Sarto, San Pio X, sul quale ci saranno alcuni incontri nei prossimi giorni. Giovedì 15 nel Salone Ducale del Palazzo Episcopale di Treviso in Piazza Duomo il dottor Giampaolo Romanato, noto e apprezzato studioso dell'opera di San Pio X, presenta un nuovo volume, edizioni Lindau Torino, Pio X alle origini del cattolicesimo contemporaneo. Interverrà anche il saggista Marco Roncalli, nipote di un altro santo, San Giovanni XXIII, con il saluto di Monsignor Gardin, vescovo di Treviso. Altri due appuntamenti invece sono, diciamo, di ispirazione economica: il 23 e il 24, venerdì e sabato della settimana prossima a Montebelluna, all'auditorium della biblioteca comunale. Il 23, giorno 23, venerdì alle 20:45, come nasce un'economia del territorio, la chance dell'economia civile. E poi la mattina di sabato 24 alle 9, sempre in auditorium biblioteca di Montebelluna, c'era una volta la città del lavoro, ricerca e testimonianze su un distretto industriale. Tutto questo appunto nel contesto dell'anno centenario, che, lo ricordiamo, culminerà con la Santa Messa solenne presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin sabato 23 agosto nel piazzale esterno del Santuario delle Cendrole a Riese Pio X. Pochi giorni dopo ci sarà il pellegrinaggio a Roma, il pellegrinaggio della diocesi di Treviso, con le iscrizioni che vanno fatte entro il 15 luglio, versando la quota di iscrizione che a seconda delle formule scelte va dai 165 ai 270 euro. Programma di due giorni, da martedì 9 al mattino a mercoledì 10 al rientro, e programma di tre giorni, partenza un giorno prima, il lunedì 8. Ci sarà l'udienza con il Santo Padre appunto nella mattina di mercoledì in Piazza San Pietro, e ovviamente la possibilità di visitare la tomba di San Pio X nella navata sinistra della Basilica di San Pietro, oltre che tutte le celebrazioni, la visita di Roma per quanto sarà possibile fare in poche ore. Pellegrinaggio diocesano, i riferimenti sono l'ufficio diocesano pellegrinaggi 0422 576 882, la mail past.pellegr@diocesitv.it. E per tutte le iniziative, dettagli e le informazioni sull'anno centenario di San Pio X, www.centenariopiox.it.